l'inganno, ecco regina il tempo. Ma te non turbi intanto un geloso temor, già sai che io fingo. Se porto mie vote, se ora scelgo il caro bene mio stringo. Cino, l'amor con cui me gloria il fine ricompensar tua fede, io non vorrei che interpretassi a fasto. Ragion mi muove ad accettar la destra che mi ferma sul trono. Godrò d'esser regina per esser tua. Ma quel potere qui di acqua innalzarmi agli dèi, cadere senza tua querela, io non potrei. Per una sorte onde mi vede il cielo, non recuso accidenti, o cadro esangue, o tu sarai reina. O come dolce allora fia l'abbracciarti,